Enelog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Maltrattavano i bambini delle loro classi dell'asilo, per questo due insegnanti sono state sospese. La Polizia di Stato di Taranto ha eseguito questa mattina una misura cautelare interdittiva nei confronti delle maestre che saranno sospese dalla funzione dell'esercizio pubblico perché resesi responsabili di ripetuti maltrattamenti nei confronti di bimbi di età compresa fra 3 e 5 anni in un asilo di Taranto. L'indagine, avviata alla fine dello scorso anno scolastico a seguito di segnalazioni da parte di alcuni genitori che avevano notato il cambio di umore dei figli, ha permesso di documentare le percosse e il linguaggio offensivo e mortificante nei confronti dei bambini da parte delle due insegnanti, una delle quali maestra di sostegno di un alunno disabile. Ritorno a malincuore su un argomento che è stato spesso trattato a questi microfoni. Perché le insegnanti picchiano i ragazzi? Perché soltanto quando si apre un'inchiesta giudiziaria e un magistrato fa mettere delle telecamere si avverte e si ha la certezza di quello che le mamme avevano paventato? L'ultimo episodio di Taranto è altrettanto spiacevole quanto gli altri di cui abbiamo già parlato. Il video lo trovate ormai in rete dappertutto, c'è questa maestra che gira per i banchi come impazzita con il camice bianco, chissà perché medicalizzata nella sua funzione, e picchia i ragazzi. Li picchia, li mena, li sbatte. C'è un ragazzo in particolare disabile e non ho difficoltà a intuire qual è il suo tipo di disabilità, perché è un ragazzo che si copre le orecchie, si copre la faccia mentre la maestra lo sbatte contro il muro e lo picchia. Era anche una maestra di sostegno. Sono state arrestate, fermate, interdette, scompariranno. Ma è accaduto per le maestre di Napoli una settimana fa, porco come puzzi ti faccio vedere io, e giù botte, giù schiaffi contro dei bambini anche lì di una scuola per l'infanzia, e anche lì sono state arrestate, sono state interdette. Abbiamo trattato ampiamente il caso di Grottammare, in quel caso è un istituto specializzato i ragazzi con disabilità, e anche lì botte, reclusi, rinchiusi. E abbiamo trattato un anno fa la questione di Vicenza, anche lì un ragazzo picchiato, anche lì ripreso con le telecamere. E se mi sono preso la briga, perché ho deciso 10 minuti fa di fare questa trasmissione, dare questo argomento, cercate in un motore di ricerca su Google maestra arrestata, insegnante arrestata, insegnante che picchia, e vedrete c'è una sfilza di esempi, ne ho stampati un po' ma non ho voglia nemmeno di leggerli tutti, tanto il caso esemplificativo. Ieri mi ha chiamato un'amica mia, mamma, dice: tornato a casa mio figlio, che anche lì ha dei problemi, un ragazzo disabile, e con uno sfregio in faccia l'ho portato al pronto soccorso per fargli fare un certificato. Mi hanno detto si è fatto male da solo, non mi fido. Fanno bene a non fidarsi i genitori. Qua non vuole essere una generalizzazione che tutte le maestre d'Italia comunque picchino i ragazzini, ma è possibile che ogni volta che un magistrato fa mettere delle telecamere di sorveglianza avviene che i sospetti dei genitori, che sono dei rompiscatole, le mamme sono ansiose, sono fissati, pensano che il figlio sia il migliore di tutti, sia un principino intoccabile, questo ce lo metto tutto, mi ci metto io nella schiera dei genitori ansiosi, se volete. Ma è possibile che tutte le volte che un sospetto fondato di madri che vedono i figli tornare a casa con segni evidenti di percosse, quando va per le vie giudiziarie si accerta che ciò è vero? Ma come le cercano? Come vengono classificate, selezionate le insegnanti, soprattutto le insegnanti che si occupano di ragazzi difficili? Qualcuno dice: mettiamo le telecamere di sorveglianza in tutte le scuole d'Italia. Il garante per la tutela dei dati personali dice: non è possibile, va contro le leggi e la privacy. Ma qual è la soluzione? 800 24 00 24, ne sapete qualcosa di maestri insegnanti che picchiano i ragazzi a scuola? Sareste d'accordo di mettere le telecamere in tutte le scuole? Così c'è trasparenza, chiarezza, si vede tutto. Una bambina di 14 mesi che non può parlare, veniva abusata tutti i giorni, è fatta mangiare seduta e guai se parlava, veniva picchiata con i capelli tirati, con la mano ristretta. Piangono per il dolore, urlano per la rabbia. I genitori dell'asilo Lager di Pistoia hanno visto in questo video quel che accadeva ai loro figli, affidati ogni mattina alle cure ben poco amorevoli delle maestre. A far scattare le indagini è stato un papà poliziotto. Io ho raccolto i dati di queste persone, genitori che si lamentavano del nervosismo dei figli, alcuni fatti, spalle lussate situazioni del genere. I bambini non volevano mangiare a casa e infatti le telecamere nascoste all'asilo dalla polizia hanno mostrato come venivano convinti con la forza ad ingurgitare il cibo e sollevati di peso dal seggiolone. Acciaffate perché piangeva e non voleva mangiare, a botte in faccia, neanche sculacciate, botte, schiaffi, urlava, li rinchiudevano, non sa che combinava. 800 24 00 24, perché ogni volta che si mette una telecamera nascosta di fronte del sospetto, di una mamma ansiosa, di un padre apprensivo, in realtà si vedono maestre che picchiano i ragazzini. Cristina, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, ho fatto l'insegnante 38 anni. Quanti ne ha menati i ragazzini? Ah no, guardi, io li ho rispettati molto i miei ragazzi, ho insegnato alle medie, non alle elementari. Però le posso dire, Nicoletti, che finché in Italia non cambieranno i criteri di assunzione per queste persone che hanno un compito delicatissimo, ma in Italia si preferisce chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Allora scattano le indagini, ma non sarebbe meglio selezionare il personale prima? Ecco, dov'è il punto debole? Cioè, per fare l'insegnante occorre... Allora, gli insegnanti vengono assunti attraverso delle leggi, adesso hanno ripristinato un concorso, ma il concorso non va ad appurare se queste persone hanno l'attitudine a fare questo mestiere delicato. Io le posso assicurare che in 38 anni di servizio di miei colleghi centrati ne ho conosciuti parecchi, non li picchiavano certamente, ma non sapevano neanche chi fossero i loro colleghi. Ma perché scatta? Perché è un problema che in effetti i ragazzini piccoli esauriscono chiunque, ci vuole una grande tenuta e una grande capacità. Ma sono anch'io nonna. Sì, sì, no, lo spiego perché sennò... Ma la proposta che molti fanno di fare una sorta di esame periodico sulla tenuta psichica degli insegnanti, lei pensi, non so se il suo grado di anzianità professionale ha avuto questa esperienza, mi ha raccontato un insegnante che fino agli anni 70 facevano la Wasserman agli insegnanti. Sì, lo sapevo anch'io. Era più importante capire se avesse la sifilide un insegnante, certo, piuttosto che fosse adeguata a trattare dei bambini, sifilide che oggi è abbastanza raro prendersela, diciamo. Ma le dirò di più, che anche gli insegnanti d'appoggio, io l'ultimo anno che ho insegnato, adesso sono in pensione, ci sono andata 3 anni fa, questa insegnante d'appoggio venuta da Sarno mi chiede di portare il bimbo handicappato in bagno, io le ho detto guarda che non è compito mio cara, è compito tuo, mi ha fatto vedere che le mancava un pezzo di braccio, aveva un moncherino e lei non era in grado di farlo, e ho detto ma che te l'ha data l'abilità ad essere insegnante d'appoggio? A Napoli è così, mi ha risposto. Vabbè, questi sono casi limite. Non ci sono più, diciamo per la cronaca, ne parlerò a questi microfoni quando avrò qualche elemento preciso. Il ministero si sta occupando, il ministero che si occupa appunto di scuola, di istruzione, di fare una legge civile perlomeno, che almeno le insegnanti di sostegno seguano un loro iter specifico. Chi si occupa di ragazzi disabili abbia gli strumenti professionali per poterlo fare, perché adesso nel campo degli insegnanti di sostegno è molto difficile trovare persone che nella loro essere transeunti e momentaneamente occupate in questi ragazzi abbiano gli strumenti per farlo. Maurizio, buongiorno. Buongiorno Gianluca, una testimonianza. Io ho 56 anni, mio fratello ora ne ha 50. Ebbe a suo tempo un maestro che attraverso punizioni corporali e indicibili punizioni psicologiche tipo far tirare giù ad esempio i pantaloncini ai bambini davanti alle bambine, per cui qui siamo addirittura nel... Ma che anni erano, scusi? Erano anni erano gli anni 70-75. Volevo dire solo questo, le conseguenze sono state ovviamente protratte nel tempo, perché hanno prodotto una classe di persone, quale purtroppo è anche mio fratello, con tutto il bene che gli voglio, di psicopatici, di persone con gravissime, con grandi... Lei pensa che il trauma di aver fatto vedere i pistolini alle compagnette di scuola no, le abbia fatte gli psicopatici? No, lasci stare, qui non facciamo i proclami facili del pistolino così. Lei l'ha raccontato, comunque... non è che me lo sono inventato, scusi, l'ha detto lei 5 secondi fa, questo racconta. Sì, ho capito, però allora, qual è il problema? Non è solo quello, l'ho portato come esempio, ovviamente io ripeto il tuo esempio. Sono state innumerevoli. Questo ho conosciuto che lei mi ha raccontato, se mi racconta anche le altre, dico anche le altre, secondo la sua opinione, hanno creato dei traumi? guardi, mi permetta, sulle altre poi magari si sfocia un po' anche sulla perniciosità, magari di curiosità pelosa di cosa può essere stato fatto. Cosa pelosa ha detto lei? Non è nessuna cosa pelosa. Sì, comunque lei sapeva di violenze di questo tipo che si profilano come violenza reale, doveva denunciarlo. Perché non ha denunciato la famiglia, sapeva queste cose? Benissimo, allora si potrebbe dire, la ringrazio per la domanda, quello che ho appunto detto alla sua collega è che noi siamo andati al provveditorato, i miei genitori in particolare, io sono molto maggiore rispetto a mio fratello, quando portammo questa denuncia al provveditorato il funzionario di turno addusse addirittura delle motivazioni sindacali, perché noi chiedevamo a viva voce che questa fosse rimossa. Allora non c'era la prassi di mettere la telecamera, perché al massimo c'erano quelli di Rischia Tutto. Sì, non esistevano. Ecco, per cui c'era proprio anche una motivazione ideologica. Io non credo che questa motivazione ideologica sia del tutto scomparsa oggi. Maurizio, no, adesso diciamo abbiamo chiarito il problema. Questo è un costume diciamo che affonda le radici negli anni. Io stesso sono stato con insegnanti elementari che ci davano le botte in testa con la canna, ci buttavano la faccia dentro la turca perché non la tenevamo pulita, via dicendo. Quindi consideriamo quelle epoche arcaiche. Io sto parlando della contemporaneità, di quello che accade in questi giorni, in cui comunque la sensibilità generale verso il trattamento nell'infanzia è molto maturata e quindi non esiste più la scusante che molti dicono è un sistema per disciplinare i ragazzi. Non esiste, non si può fare, è un reato gravissimo. Le fattispecie che lei citava poi sono ancora più gravi, perché sono reati sessuali a tutti gli effetti, quindi figuriamoci. Che esista uno spirito di casta per difendere le persone che fanno cose del genere, l'ho toccato con mano. Quando parla della vicenda di Vicenza, hanno arrestato due insegnanti, uno di sostegno, che martirizzavano un ragazzo autistico di 15 anni, ho trovato una totale assenza del dirigente scolastico, dei colleghi, come se avessimo detto qualcosa che non andava detto. Quindi sono perfettamente d'accordo con quello che dice lei. Melog, cronache meridiane. Schiaffi, calci, pugni, pizzicotti, addirittura la testa sbattuta sul banco. Continui maltrattamenti a cui quattro maestre di un asilo di Mileto in provincia di Vibo Valentia avrebbero sottoposto uno dei bambini loro affidati. Un bimbo di neanche 6 anni affetto da un ritardo cognitivo e da una iperattività che le donne probabilmente non tolleravano, tanto da scegliere di usare la violenza. Minacce, urla, schiaffi contro 15 bambini d'età compresa tra 1 anno e 3 anni e mezzo di un asilo privato. Siamo a Casarile, tra le province di Milano e Pavia, ad inchiodare le maestre e le telecamere installate dagli investigatori dopo le prime segnalazioni dei genitori dei piccoli. Un clima di terrore e disagio, come testimoniano le immagini. Per la direttrice, stanno arrivando, rispetto alla media, una caterva di sms di persone che comunque sono state testimoni, protagoniste o dirette o indirette di episodi simili. Quindi il problema c'è. Mi scrivono molto insegnanti dicendo che in realtà è vero, poi ci sono delle discriminazioni, dice non bisogna assumere insegnanti nubili e avanti negli anni perché soltanto le donne sposate sanno cosa sono i figli. Non è così, io sono convinto che il trattamento dell'infanzia è qualcosa che si studia sui banchi di università ed essere naturalmente accoppiato con una particolare tenuta psichica e con una capacità di gestire il problema anche da un punto di vista umano. Non basta aver preso una laurea per poter fare o un'abilitazione a fare l'insegnante, questo è poco ma è sicuro, e poco penso che c'entri l'esperienza diretta familiare dei figli. Chi tratta ragazzi non è detto necessariamente da avere i figli, non c'entra nulla, può farlo benissimo anche senza avere figli propri. Teresa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Io stavo ascoltando la radio e siccome sono un insegnante ritengo appunto che la proposta che veniva fatta di mettere le telecamere nelle aule certamente potrebbe andare contro la privacy, però un insegnante che faccia il suo lavoro con correttezza e con il senso del dovere non deve temere una telecamera dentro l'aula. E in ogni caso io ho insegnato per qualche anno anche in una scuola di Torino dove le porte delle aule avevano un oblò di vetro, senza la telecamera il preside, i bidelli, chiunque passando poteva sbirciare all'interno delle aule senza disturbare chiaramente il lavoro dell'insegnante, e questo tutto sommato potrebbe essere una forma certo, di se dovessi menare un bambino, lo andrei a menare in una zona cieca rispetto al punto di vista dello blocco. Indubbiamente, indubbiamente. Sarebbe l'angolo delle botte, sarebbe l'unico angolo oscurato allo blocco. La telecamera chiaramente dà un senso. Come sono sorvegliate, le vede le banche, le case, i supermercati, ma, c'è scritto telecamera di sorveglianza, uno sa che se si infila in tasca la merce di un grande magazzino, la telecamera lo riprende, o se fa una rapina viene comunque ripreso. Più o meno deve essere lo stesso principio, se non fai nulla di male cosa dovresti temere? E infatti io non avrei nessun problema ad avere, io e tanti altri miei colleghi non avremmo nessun problema ad avere una telecamera in casa. Fermo restando, lei mi insegna, signora, che se una persona compie atti del genere è una persona che non è in perfetto possesso delle proprie facoltà. E quindi non cambierebbe la telecamera la situazione, lo farebbe comunque in altra maniera, più subdola, più certo, infame, in altro posto. Certo. Non risolve il problema, diciamo. Però io mi pongo una domanda, come mai tutte le volte che comunque viene messa a telecamera qualcosa c'è sempre? Paola, buongiorno. Buongiorno. Io telefono perché ho avuto problemi con due figli, uno ce l'ho con il sostegno da quando era piccolo e l'altro, diciamo, tra virgolette, è normodotato. E ho avuto dei grandi, grandissimi problemi con tutti e due, ma dal grande gli hanno messo le mani addosso anche la logopedista della ASL, cioè delle cose allucinanti. Ecco, lei ha avuto modo in qualche maniera di denunciare questi fatti? Sì, io ho denunciato, cioè denuncia ancora in corso con il provveditorato, con la preside, perché il mio grande arriva alle superiori, no, adesso le sta alle superiori, alle medie, e alle medie ho avuto proprio esasperata dall'asilo, da quella che gli dava da mangiare. Lei non è un po' ossessiva in questo, ansiosa? Glielo domando perché francamente fra genitori queste cose bisogna dirsele. Io sono ansiosa, ma quando il bambino viene mi dice m'ha menato, io vado lì gli dico ma è vero che gli hai menato? Sì, gli ho menato perché non ne potevo più. Ma come può? Già la risposta in sé è un'accusa. Con questo dovrebbe andarla a denunciare, ma sta scherzando. Infatti, non ne potevo più. Non ne potevo più, allora cambia mestiere, perché non è il mestiere, cioè non è scelto il giusto mestiere. Sai cosa mi domando? Già con ragazzi difficili, ma anche con ragazzi in generale, gestire il problema dei compagni di classe aggressivi, violenti, bulli è un problema. Ma se uno si deve anche guardare dagli insegnanti, comincia a essere difficilmente gestibile. Grazie. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità. Ma io ho chiamato perché è vero, come dice lei, che le telecamere sarebbero qualcosa, forse non qualcosa di definitivo e di efficace, ma ecco, forse avrebbero il compito, no, l'opportunità di dire in qualche modo potrei smascherarti subito un po' meglio. Però sa Marco, io penso che la telecamera funzioni in quanto telecamera nascosta per certificare l'abuso, come deterrente funziona poco perché una telecamera è eludibile. Se ho la volontà precisa o non ho la tenuta psichica che mi fermi ad atti di violenza, li compio comunque fuori dall'area della telecamera. La telecamera non è onnicomprensiva, ho mille maniere per gestire la mia violenza nei confronti di un bambino. Certo, però l'alternativa dovrebbe esserci a monte, forse, probabilmente, setacciando, migliorando meglio il sistema che seleziona gli insegnanti o inserendo delle verifiche, come lei diceva, o come diceva l'insegnante, diciamo. Ma io penso che soprattutto, Paolo, Marco, non so se mi dà ragione, una minore omertà da parte del corpo insegnante, perché quando l'episodio arriva alle mamme, già è noto nell'ambito delle colleghe, delle maestre, delle bidelle, che quella è una che sbarella e va fuori di testa, però nessuno dice niente. Forse ci stiamo anche con un aspetto un po' chiuso, no? Di una società al di fuori della società, senza volere sottintendere nulla, si è verificato per esempio con il clero, con altre situazioni. Io sono cattolico. Io ho fatto la scuola dei preti, so esattamente cos'era la scuola dei preti, figuriamoci benissimo. Esatto. Però si stanno facendo i loro conti, bisognerebbe farli anche laicamente nelle scuole non gestite da religiosi. Fernando, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, senta, spezziamo una lancia a favore delle telecamere, c'è tanta disoccupazione, si incrementerebbero i posti di lavoro. Ma come no, questo non l'ho capito, i posti di lavoro come? Gli installatori di telecamere? Ma bisogna installare le telecamere. Ma lei di mestiere installa telecamere? No, assolutamente, non c'entro proprio nulla con le telecamere, però questo è un deterrente fortissimo, lo vogliamo capire e smetterla con questa omertà diffusa in Italia? Questa gente qui, quando io sento dire dalla cronista calci, pugni, testate sui tavoli, ma che scherziamo? Io queste maestre le darei in mano ai genitori. Vabbè, un quarto d'ora, capito? No, è inutile che facciamo i buonisti. Ma io, di finirla. No, Fernando, stia calma, si tranquillizza, sennò le prende anche il coccolone in diretta e non mi giova bene. Non è che sono mai stato buonista, l'ultima cosa di cui mi si può accusare, ma è solamente ridicolo dire lasciamolo in mano ai genitori così ne fanno stracci da pavimento. Non è questa la soluzione. Vogliamo insegnanti formati, bravi, giovani, intelligenti, che sappiano quello che fanno, che studiano, che conoscono i ragazzi. Domenica, buongiorno. Buongiorno. Io sono un'insegnante di un istituto professionale della provincia di Forlì Cesena. Io sono a favore delle telecamere, perché se noi aspettiamo la formazione e quant'altro, ho detto prima con la ragazza che ha preso la telefonata, facciamo prima a morire. Anche perché... Ma lei non creerebbe problemi domenica avere una telecamera in classe? No, assolutamente, anzi... io vedo, avendo ragazzi in istituto superiore, molte volte ci sono studenti che usano il cellulare in maniera impropria e a volte si vedono dei video anche su Facebook. Sì, diciamo che il problema è per quelli piccoli che non si possono difendere, per quelli disabili. I grandi sanno come difendersi. A domani. Grazie Intonti, grazie